Italia in controluce. Una buona giornata ad Alessandra Tedesco. Un tempo si chiamavano manicomi criminali. A metà degli anni 70 sono diventati ospedali psichiatrici giudiziari. In Italia ne esistono 6: ad Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, Castiglione delle Stiviere, Montelupo Fiorentino, Napoli e Reggio Emilia. Molte le polemiche sorte intorno a queste strutture per le condizioni in cui vivono i detenuti, tanto che nel 2013 gli ospedali psichiatrici giudiziari potrebbero essere chiusi. Ce ne parla Cristina Carpinelli. Lo scorso anno, più o meno in questo periodo, alcuni senatori di una commissione d'inchiesta fecero un blitz, portandosi dietro le telecamere all'interno di alcuni ospedali psichiatrici giudiziari. Quello che stiamo per farvi sentire è l'estratto di quelle registrazioni. Una disperazione esplosa alla vista dei senatori. Era la prima volta che queste persone, questi detenuti, ricevevano una visita. Ci è venuto al Senato a farli chiudere questi posti. Ci deve mettere a lavorare, ci deve mettere. Io non so pericoloso, io non so pericoloso. Sono insorgente, giustizia. Quando giustizia, fanno uscire l'Italia dove è finita. L'Italia dove è finita. Perché l'avete chiuso qua dentro? Fatelo uscire, vieni, calmo. La gente ha paura di parlare, io non ho paura, la televisione, portatemi a Bruno Vespa, portatemi la porta a porta, mi hanno chiuso qua dentro a morire, giustizia. Ci sono le guardie che picchiano i ricoverati, approfittano manca tutto. Se potete aiutarci a sgombrare da questo posto, che io personalmente non ce la faccio più. Con questo è tutto. Signore del Senato, fatemi giustizia, fatemi uscire di qua. Papà, vieni a salvare. L'avevo detto, prima o poi vi frego tutti. Quelli ridevano, pensavano scherzassi. Da qui non esce mai nessuno in verticale, come se questo mi potesse scoraggiare. Poi col tempo mi hanno visto consumarmi poco a poco. Ho perso i chili, ho perso i denti. Somiglio a un topo, ho rosicchiato tutti gli attimi di vita regalati. Ho coltivato i miei dolci. Quello che non possiamo farvi vedere sono i visi di questi uomini finiti in un ospedale giudiziario, spesso per questioni minuscole. Ignazio Marino del PD è uno dei senatori presenti al blitz. Racconterà nella trasmissione Rai Presa Diretta di aver incontrato diverse persone accusate e detenute per reati minimi. Se si viene riconosciuti incapaci di intendere e di volere, non si ha un processo, si viene chiusi in uno di questi 6 lager e poi si viene prorogata la misura cautelare di sicurezza, viene prorogata di 6 mesi in 6 mesi, a volte anche per periodi più lunghi, e si arriva a quel termine detestabile di ergastolo bianco. Racconterà nel particolare di un ragazzo accusato d'essere incapace di intendere e di volere, colpevole di aver finto d'avere una pistola in tasca e aver fatto una rapina di 7.000 lire in un bar. Dal 92 quel ragazzo è in un ospedale psichiatrico giudiziario. In Italia, su 376 internati dichiarati dimissibili, per ora solo 65 sono stati effettivamente dimessi, mentre per gli altri 115 è stata prevista una proroga della pena. Di questi, solo 5 sono ancora internati perché ritenuti socialmente pericolosi. Tutti gli altri non hanno varcato i cancelli dell'OPG perché non hanno ricevuto un progetto terapeutico, non hanno cioè una comunità che li accolga o un ASL che li assista. E in effetti, questo è il vero tema. In Italia esistono 6 ospedali psichiatrici giudiziari. Fino ad oggi non si era mai trovata la quadra, ora sembra raggiunta. Sembra infatti recuperata al Senato la copertura finanziaria per arrivare alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. I due relatori, Filippo Berselli del PDL e Alberto Maritati del PD, hanno presentato un nuovo emendamento che individua precise fonti di finanziamento e stima in 273 milioni in totale la spesa necessaria nel biennio 2012-2013. A decorrere dal 31 marzo 2013, si legge nell'emendamento, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno di strutture sanitarie appositamente create da questa nuova norma. Significa, cioè, che gli OPG finalmente chiudono, come ci spiega Filippo Berselli del PDL. Beh, si tratta di un evento largamente atteso e largamente condiviso dal Parlamento. Potrei aggiungere anche un altro avverbio, lungamente atteso dal Parlamento. Il merito va indubbiamente al senatore Marino che e alla sua commissione che si sono battuti estremamente per ottenere questo risultato e devo dire che noi relatori abbiamo colto al volo questa opportunità per inserirlo come appunto emendamento nella legge di conversione del decreto legge che era approvato in data odierna dal Senato della Repubblica. Esiste ancora un problema di copertura per quanto riguarda questo emendamento che come relatore abbiamo presentato e stiamo cercando di superare le ultime resistenze perché indubbiamente c'è un interesse generale, direi quasi di civiltà giuridica per accogliere questa riforma che va nel senso di eliminare una struttura aberrante che segnava in modo negativo il nostro paese. Saranno strutture più piccole, immagino, anche perché i numeri delle persone detenute non mi sembrano così. Parliamo di numeri non elevati, saranno delle strutture ospitali per queste persone e non delle strutture veramente che rappresentavano una vera e propria vergogna per il nostro paese. Queste persone vanno curate perché sono malate, vanno curate adeguatamente, vanno messe in sicurezza, ripeto, che non possono nuocere alla sicurezza dei cittadini, però insomma si tratterà di strutture che poi non è neanche difficile immaginare, ce ne sono tante negli altri paesi, basta ogni tanto guardare fuori da quello che viene dall'Italia per rendersi conto che gli esempi non mancano, esempi positivi. E anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate di Italia in Controluce su www.radio24.it. Ci trovate anche su Facebook e Twitter. Torniamo domani alle 6.30.